Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Figli di. Questo programma è un po' strano, che forse qualcuno di voi avrà ascoltato nelle sue versioni zero e quasi zero. Un programma che, vi dicevo, va in onda solo su Transizione di Fase e che viene realizzato all'interno delle Officine Babilonia, uno spazio occupato della città di Cosenza. Per questo appuntamento, sfortunatamente, vi comunichiamo una triste notizia, ovvero siamo presenti nella nostra formazione iper ridotta. Infatti la nostra cara co-conduttrice Guglielmina non è presente fra noi, questo ci dispiace moltissimo. Guglielmina, ritorna fra noi, ci manchi tanto, ma siamo certi che presto ritornerai, lo sappiamo, perché insomma abbiamo fatto una ottima riunione, dobbiamo dirlo, all'interno delle Officine. Abbiamo realizzato una serie di progetti, almeno nelle nostre menti. Poi chiaramente salutiamo anche il nostro, non sappiamo, tecnico, il nostro geometra, ecco, Orestaccio, il geometra della trasmissione, e poi salutiamo anche Ciccio Nodo, che insomma comunque è sempre presente nello spirito con noi. Per questa puntata comunque ci occuperemo, e abbiamo anche degli ospiti d'eccezione, malgrado siano solo virtuali. Comunque per questa puntata ci occuperemo di una tematica abbastanza difficile, veramente molto dura, una tematica che abbiamo dovuto approfondire studiando una serie di libri marxisti, abbiamo letto molto Capitale per realizzare questo programma, questa puntata, quindi ci siamo documentati molto. Abbiamo tralasciato un po' le letture anarchiche, quelle, per quelle ci vuole Restaccio, insomma. Però insomma, abbiamo letto veramente tanto Capitale, anche il Manifesto ovviamente del Partito Comunista, oltre che il Giornale, insomma, quindi ci siamo fatti una cultura e quindi parleremo di questa tematica dell'amore. E lo faremo attraverso i nostri ospiti di eccezione, ovvero loro non lo sanno di essere ospiti, non lo sapranno mai sicuramente, però abbiamo con noi i diaframma che parleranno dunque attraverso le loro canzoni di quello che è la loro visione dell'amore. Di questo amore che va, viene, se ne va, se ne frega, insomma, sì, parleremo di questa tematica. Vi ripeto, per fare questo abbiamo studiato molto, molti testi marxisti. Brevemente, sicuramente, vi dico, per chi non lo sapesse, chi sono i diaframma. Ecco, sono un fantastico gruppo, sono il nostro gruppo preferito, lo diciamo senza timore di essere smentiti. I diaframma sono questo gruppo che nasce veramente agli albori degli anni 80, fondamentalmente già dal 78-79. Federico Fiumani, l'anima di questo gruppo, suonicchiava insomma nel liceo. Però i diaframma sono stati un gruppo che è nato a Firenze e che sono stati fra i primi a cantare i rock italiani in lingua italiana, quindi dobbiamo a loro veramente tanto, tanto, tanto, malgrado questo gruppo non sia conosciuto come gli altre, come le altre diciamo produzioni di quel tempo di Firenze. Pensiamo ai Litfiba, che insomma già pronunciare il nome a noi provoca qualche problematica, malgrado i primi Litfiba, dobbiamo dirlo, erano tutta un'altra cosa, poi si sono scaccati, si sono svenduti e vabbè, fatti loro. I diaframmi invece no, sono rimasti veramente fedeli alla linea. Federico Fiumani, questo personaggio veramente molto carismatico, continua a suonare e non gliene frega niente, ci piace molto il suo atteggiamento. Ascolteremo dunque varie cose, vari pezzi dei diaframma che parlano dell'amore a 360 gradi. però non ascolteremo l'ultimo disco che è uscito proprio nel 2012, ultimamente, di questo gruppo, perché magari lo faremo in un prossimo appuntamento. Vi consigliamo comunque di ascoltare anche gli ultimi pezzi di diaframma, perché meritano veramente tanto. Ora basta con le mie parole, con le mie stronzate, perché più che parole secondo me sono stronzate. Ad ogni modo, ascoltiamo questo primo pezzo in scaletta, che è veramente interessante, insomma, ci fa capire un po' insomma questa scoperta dell'amore e che cosa rappresenta per i diaframma. Quindi ascoltiamo Io amo lei, che è stato pubblicato nel 1994 nel disco Confidenziale. È una canzone, ve lo diciamo brevemente, davvero simpatica, che ha queste ripetizioni di termini che già leggiamo nel titolo, insomma, io amo lei, eccetera, eccetera, questo incentrarsi su lei, sulla scoperta dell'altra persona da amare, è veramente interessante. E un'ultima cosa che ci piace molto sono questi versi nei quali Fiumani, che all'epoca già era diventato cantante, perché prima negli anni 80 in realtà non era Fiumani il cantante, era solo il chitarrista, e c'erano altri due personaggi, Miro Sassolini, che diciamo ha anche dato una svolta importante al gruppo, però, e poi c'era un altro cantante del quale al momento ci sfugge sfortunatamente il nome, e ritornando comunque al pezzo, ecco, vi dicevo di questo verso interessante in cui si recita: io amo lei, non la realtà che le sta intorno, io amo lei, non gli altri uomini che ha avuto. E questa cosa, insomma, è veramente significativa e anche abbastanza rara al giorno d'oggi. Io amo lei, non la realtà che le sta intorno. Io amo lei, non gli altri uomini che ha avuto. Dimentichiamoci il passato, che poi tanto non lo saprei mai. Io amo lei, l'intensità del suo sorriso. Io amo lei, splendore e forza nel suo viso. L'intensità del suo sorriso. Per lei, passo solo per lei. Dentro di me c'è un'isola dove non ho mai sonno. E dove vado senza provare alcun dolore. Vieni a vederla questa notte con me. Dopo aver ascoltato questo primo pezzo dei Diaframma in scaletta, vi ricordo sempre che siete all'ascolto di Figli di, questo programma che va in onda dalle officine Babilonia. Stiamo registrando comunque questo programma in una nostra veste, diciamo, ultra ridotta. Sfortunatamente non sono con noi i nostri co-conduttori, ai quali rimandiamo il nostro saluto. E continuiamo ad ascoltare i diaframma che sono i nostri ospiti in contumacia, e loro non sanno di essere ospiti di questa trasmissione, noi l'abbiamo fatta apposta, però magari un giorno, non sappiamo, magari li avremo ospiti davvero, insomma. Allora vorrà dire che Figli di è andata veramente oltre, è andata veramente su un altro pianeta. Per ora rimaniamo in questo capannone occupato ad ascoltare un altro pezzo dei Diaframma che ci parlano sempre di questa tematica che abbiamo scelto per oggi, cioè l'amore. E continuiamo a parlare di come i Diaframma scoprono questo amore, questo amore per l'altra persona, e ascoltiamo ora che cosa significa, secondo i Diaframma, essere innamorati, essere totalmente presi da un'altra persona. Che cosa significa, insomma, stare in quella situazione che veramente molti magari nemmeno conoscono una volta nella vita, come diceva la mia insegnante italiana al liceo, diceva, spiegando il dolce stil nuovo, se non sbaglio, che molte persone probabilmente non conoscono e non conosceranno mai il vero amore, insomma. Vabbè, lasciamo stare il vero amore, che cosa sia, noi non lo sappiamo nemmeno, ma comunque non lo sappiamo, non sappiamo. Noi siamo ignoranti in materia e ascoltiamo comunque questo brano tratto dal Camminando sul lato selvaggio del 2007 e ascoltiamo questo Come una droga per me, una canzone che fondamentalmente è abbastanza ripetitiva, nel senso che anche come la precedente, insomma, dove c'era questa ripetizione di lei per lei, io amo lei, eccetera eccetera, ora qui ci si rivolge direttamente in prima persona alla persona amata e quindi la si descrive come una droga, una persona alla quale cioè non si può fare a meno abbiamo questa visione, insomma, interessante di questa canzone, nella quale fondamentalmente si dice che l'amore è un sentimento che aiuta a vivere, proprio come una droga, dicono i Diaframma. Fondamentalmente chi fa uso di droghe di qualsiasi tipo, non che noi vogliamo ora, insomma, propugnare l'uso di queste sostanze, perché non ci interessa dire questo, ad ogni modo magari chi fa uso di droghe probabilmente lo fa perché sente una sorta di vuoto, e che cerca di colmare attraverso l'uso di queste sostanze, e l'amore è probabilmente la stessa cosa. Sicuramente studi di chimica ci dimostrano che l'innamoramento genera nel corpo umano, sia maschile che femminile sicuramente, maschile non sappiamo, genera comunque sicuramente degli effetti chimici, sviluppa cioè delle endorfine che fanno fisicamente stare meglio. Quindi è davvero una sorta di, l'amore fondamentalmente è davvero una sorta di droga, e forse per questo caspita di motivo che andiamo sempre girando di qua e di là alla ricerca di questo cazzo di amore che poi vabbè, lì per lì ci fa stare molto bene. ci vuole forse una dose di metadone, non sappiamo. Ad ogni modo, ascoltiamo questo pezzo dei Diaframma, di questo fantastico gruppo che è nato agli albori degli anni Ottanta e che continua ancora oggi a regalarci fantastici pezzi. Ascoltiamo dunque Come una droga per me, ripeto, dall'album Camminando sul lato selvaggio del 2007. Buon ascolto su Transizione di Fase. Tu sei come una droga per me, di cui ho bisogno sempre più. Tu sei come una droga per me, che io non smetto più. E la felicità esiste se stiamo insieme. Il tuo corpo è una droga per me, di cui ho bisogno sempre più. Il tuo corpo è una droga per me, ed io non mi stacco più. E la felicità esiste, è il tuo sedere. Ti penso spesso io a te, ti penso spesso, è un sentimento quel che c'è, è un sentimento che aiuta a vivere. Aiuta a vivere. droga per me, di cui ho bisogno sempre più. Tu sei come una droga per me, che io non smetto più. E la felicità esiste se siamo insieme. Ti penso spesso io a te, penso spesso, è un sentimento quel che c'è, è un sentimento che aiuta a vivere, che aiuta a vivere. Ebbene, abbiamo ascoltato questo pezzo dei Diaframma dove l'amore viene paragonato a una droga, nel senso che l'amore è qualcosa che fa stare molto bene e che fa credere che la felicità esista davvero. Ad ogni modo, quando questa situazione così bella di innamoramento, di scoperta dell'amore, come abbiamo anche visto nella precedente canzone Io amo lei del 1994, quando questa fantastica situazione di innamoramento finisce, decade, beh, diciamo che tutta questa meraviglia non c'è più. Non c'è più, tant'è vero che a volte ci si rende conto di aver vissuto un falso amore. I Diaframma stessi, insomma, ci raccontano un po' questa cosa. Infatti, in un album del 1986, Tre volte lacrime, quando a cantare non era ancora Federico Fiumani, bensì Miro Sassolini, in questo brano che ascolteremo a breve, Falso Amore, i Diaframma, insomma, ci danno una panoramica leggermente diversa di quello che abbiamo ascoltato fino ad ora. E quindi vediamo questo falso amore che è come una sorta di inverno che ci consola, come recita il testo della canzone. E si chiede addirittura alla donna amata, si scrive ancora, vediamo questo ritorno in prima persona, questo chiedere alla persona falsamente amata di voltarsi ancora per un istante infinito, un falso amore che picchia alla porta quando l'anima è altrove. Quindi molte volte, insomma, quando c'è questo freddo, questo inverno, per consolarci dal vuoto che possiamo avvertire all'interno di noi, andiamo a trovare un falso amore, malgrado l'anima pensi a qualche altra cosa. Quindi vediamo come in realtà i testi dei Diaframma sono autenticamente poetici, nel senso che non c'è quella ostentazione che magari possiamo trovare in alcuni testi, almeno della musica italiana odierna, dove c'è questa estrema, quasi erudita, diciamo così, dimostrazione, diciamo, della conoscenza della materia poetica. Qui invece non siamo, a mio parere, insomma, di fronte ad una autentica poesia, nel senso che ci si racconta interiormente, si racconta, l'autore dei testi, che è quasi sempre Federico Fiumani, l'autore dei testi, insomma, ci racconta un po' un percorso della sua anima. E non è che ora qui vogliamo fare una lezione di letteratura italiana, anche se ci piacerebbe, non lo nascondiamo, magari prima o poi lo faremo proprio in maniera, insomma, faremo una lettura dantesca, che caspita ne so. Ad ogni modo, quello che colpisce della poesia e della musica di Fiumani, dei testi di Fiumani, è soprattutto questo diario di un'anima, un po' come, beh, lo facciamo questo confronto, non ce ne frega niente, un po' come per esempio la poesia di Catullo, che guarda caso noi ammiriamo moltissimo. E qui, insomma, ci si racconta e si racconta, insomma, che cosa vuol dire vivere, insomma, in questa situazione di buio, di notte, di inverno, e di cercare in un amore falso, e sappiamo già a priori che è falso, che cosa significa comunque cercare in questo falso amore una sorta di, diciamo così, consolazione. E c'era chi, come Boezio nel Medioevo, cercava una consolazione nella filosofia, e c'è chi oggi invece la cerca in un falso amore. Comunque si cerca sempre qualche consolazione rispetto a una situazione interiore di negatività o quantomeno di mancanza di luce, mancanza di calore. E queste sono ovviamente le nostre stronzate interpretative. Ad ogni modo la finiamo qui, altrimenti veramente saremmo molto molto pesanti, e ascoltiamo questo testo e questa canzone che anche musicalmente è molto interessante e ci riporta veramente molto indietro al 1986, molti molti anni fa, e vi consiglio di ascoltare anche la voce di Sassolini, che a nostro giudizio è davvero davvero molto interessante. Una voce che poi è stata, lo diciamo senza timore di essere smentiti, è stata poi veramente copiata da molti musicisti di quel periodo e oltre. Verso di me, se ricordarmi non puoi. Questo è l'inverno che ci consola, gioie sottratti, dimenticati. Da questi giorni nascosti, da questi giorni macchiati di solitudine. Voltati ancora per un istante infinito, un falso amore che picchia la porta quando l'anima altrove è una tensione dentro di me, che non svanisca, che non svanisca. Tieni la mano che non sa cosa farai domani, tieni la mano che non sa cosa farai domani. Prenditi un cuore che in questa notte illumina, stringiti al cuore che in questa notte illumina, stringiti al cuore che in questa notte illumina, stringiti al cuore che in questa notte. We'll be right back. E ben ritrovati dopo questo ascolto, sicuramente molto interessante, di una canzone che certamente non passa di frequente nelle radio, anche nelle web radio secondo noi, quindi magari prima o poi faremo anche una playlist sui diaframma, così ci caceranno la transizione, non sappiamo. A ogni modo, dopo questa canzone che parla di questo amore falso che noi andiamo a cercare, malgrado sappiamo che sia falso, per in un certo qual modo cercare di rendere più mite il freddo dell'inverno e il buio della notte. Ora invece ascoltiamo una canzone che è fra le nostre preferite, una canzone non molto recente ancora una volta, e che risale al 1986, una canzone che è sempre contenuta nell'album Tre volte lacrime e che appunto è omonima dell'album. Anche in questa canzone a cantare è Miro Sassolini. E questa canzone è bella perché in fondo parla della fine di un amore, di una sorta di ideale forse che si è avuto e che poi alla fine si sgretola, poiché rappresenta una sorta di ossessione. Infatti leggiamo per esempio un po' il testo di questa canzone, dove si recita che la mia malattia ha un volto perfetto ed un corpo da sogno. Quindi l'amore viene paragonato alla malattia, ora ad un'ossessione. A ogni modo la persona, l'oggetto diciamo di questo amore, la persona amata, è fondamentalmente si oppone all'uomo, e si legge poi insomma in questo testo che lei è contro di me, e quindi si parla di questo amore che ormai volge al termine e di come fondamentalmente questo amore generi totalmente lacrime, e infatti questa parola chiave insomma è il ritornello quasi ossessivo che appunto dà poi il nome a tutto l'intero album, Tre volte lacrime, e quindi vediamo come questo lacrime si ripete nella canzone. C'è questa sorta di abbandono dei colori, questo abbandono, anche questa voglia di non ricordare, e quindi alla fine è la canzone che chiaramente si conclude, no? Come potete immaginare, con questa parola chiave lacrime, alla fine diciamo l'ultimo testo e l'ultima parola è una parola fondamentale, perché ci fa capire dove sono queste lacrime, cioè stanno dentro di noi. Quindi la persona che, questa è una nostra interpretazione, badate bene, poi magari diciamo anche stronzate, questa canzone ci fa capire come queste lacrime alla fine siano dentro di noi, quindi la persona che sta cantando, che scrive questo testo, è come se quasi immaginasse una situazione nella quale vede la donna amata che gli è contro, una donna che rappresenta quasi una sorta di ossessione, e che fondamentalmente non esiste, e quindi tutto ciò determina delle lacrime, determina uno stato d'animo lacrimoso, diciamo così, che comunque è fondamentalmente interiore. Quindi vediamo come questi testi siano davvero dei testi che sono molto sentiti sicuramente, e che sono, come dicevamo prima, un diario interiore. Ebbene, dopo questa ennesima lezione di letteratura italiana applicata alle canzoni, che è una cosa che a noi piace veramente tanto, vi lasciamo a questo testo cantato da Miro Sassolini. E come vedete non giochiamo molto, perché ci mancano le persone adeguate, quindi abbiate pazienza, ascoltate però il diaframma. Vi ricordo sempre che siete all'ascolto di Transizione di Fase. Yeah. Ebbene sì, siamo ritornati qui. Ora anche noi facciamo delle rime baciate veramente molto becere. A ogni modo stiamo, come dicevamo, parlando di questo, di questa tematica attraverso le canzoni dei Diaframma, cioè stiamo parlando dell'amore nelle sue diverse declinazioni. Ora ascolteremo a breve un'altra canzone dei Diaframma che è veramente molto adeguata alla situazione. Infatti questa canzone che è contenuta nell'album Box del 1988, album dove cantava ancora Milo Sassolini, un album dove appunto è contenuta questa canzone Aspettando Te. In questa canzone, dicevamo, c'è veramente una tematica molto cara in questo momento a chi vi sta parlando, perché parla di questo caspita di freddo, il freddo che fa male alla milza, e vi, diciamo, vi vogliamo ricordare che essendo qui in questo spazio fantastico delle Officine Babilonia, stiamo letteralmente schiattando di freddo, malgrado in questo momento che stiamo registrando il programma siano le 5. Le 17, ecco, ci scriviamo in maniera corretta, altrimenti poi magari qualcuno ci potrebbe riprendere. Sono quasi le 17 e stiamo morendo di freddo. Non abbiamo effettivamente acceso nemmeno la stufa perché ci scocciava, ecco, accendere stufa, basta, stufa a legno ovviamente, ci seccava, quindi niente, ci teniamo a sto freddo che cerchiamo di mitigare con le canzoni dei Diaframma. E a ogni modo in questa canzone, dove c'è ancora una volta questa ripetizione di termini come il freddo, l'attesa, quindi aspettando te, freddo, queste sono le parole chiave di questa canzone, c'è questa, come dire, questa idea dell'attesa, che in realtà è un'attesa ancora una volta fallimentare, perché fondamentalmente viene accostata a questo termine freddo, un'attesa che fa sentire nel cuore questa grande sconfitta. E come dice il testo, è una sorta di nostalgia, non so, e il cuore ha una grande sconfitta, nel cuore c'è questa grande sconfitta, e questo fondamentalmente è quel sentimento che si avverte quando le cazzo di storie vanno a finire male. E che cosa si sente? Si sente veramente questo senso di sconfitta, dice, e a chi te ancora una volta, come si dice, a Cosenza, e a chi te poi sarebbe la traduzione di, vabbè, non lo diciamo, dai. Non che sia una cattiva parola, però insomma la constatazione del fatto di essere sconfitti, di rimanere sconfitti di fronte a un amore finito, a un amore consumato e freddo, fa sentire veramente molto male, e quindi è vero che scoppia la milza, ed è per questo motivo forse che noi siamo qui nel freddo delle Officine a farci scoppiare la milza e a non avere nemmeno una bottiglia di vino, il che è molto grave. Ci stiamo guardando intorno e vediamo solo delle bottiglie vuote e dei bicchieri sporchi. Evviva, evviva, evviva. Bene, dopo questa stronzata continuiamo ad ascoltare i Diaframma, i nostri ospiti virtuali in contumacia. Ascoltando dunque Aspettando Te del 1988, noi vi rimandiamo a fra poco con le nostre magiche cazzate, non ho detto stronzate questa volta, con le nostre cazzate pseudo letterario musicali, ecco. Aspettando te, mille trecce alla coperta di notte, aspettando te. Guarda quante stupidaggini ho fatto, aspettando te. Freccia la coperta di notte aspettando te, anche il sole picchia duro e puro. ecco qua, dopo questa canzone, che comunque è abbastanza allegra musicalmente parlando, ascolteremo uno dei nostri pezzi preferiti, che forse è anche un po' un piombetto, non so, però niente, è veramente pesante, come tutte le canzoni di Fiumani, le ultime alla fine. Infatti questa canzone è del 2004 ed è contenuta nel CD volume 13, e questa canzone che ci apprestiamo ad ascoltare si chiama proprio Fine di una relazione. È una canzone veramente interessante comunque, perché ha questa andatura, diciamo, narrativa molto spiccata anche nel cantato. Fiumani quasi parla, insomma, in questa canzone più che cantare, però è molto bella, molto, è una canzone che colpisce molto, ecco, e noi amiamo ascoltarla proprio in alcuni particolari momenti della nostra vita, quindi ci siamo, io sono molto legata, insomma, a questa canzone, lo dico, e l'ho ascoltata veramente tante volte, evviva! Insomma, però questa canzone è veramente bella, e c'è anche un termine a noi molto caro, infatti dice che tira la cazzata che abbiamo, capisce subito l'aria che tira e la cazzata che abbiamo fatto. In pratica si racconta di questa storia, di queste due persone che si lasciano e che fanno una serie di cose, ma lo ascolterete fra poco, è inutile che io vi racconti una canzone, la canzone parla da sé, però siccome ci siamo molto legati la vogliamo presentare nel modo più adeguato, ma ci rendiamo conto proprio in questo momento che stiamo concludendo alla grande, forse perché le cose alle quali teniamo tanto alle volte non le sappiamo proprio trattare, perché vorremmo fare chissà che e poi non facciamo niente di buono alla fine. Beh, questa è una tematica un po' nirvanesca, i Nirvana cantavano molto queste cose, vabbè. D'altra parte siamo cresciuti negli anni 90 e che ci possiamo fare? Cazzo di sfortuna, o fortuna, ma non sappiamo. A ogni modo, questa canzone, Fine di una relazione, è bella perché alla fine si conclude con una sorta di riflessione, non tanto sulla storia d'amore in sé che è finita, ma proprio sullo stato di straniamento che si può provare quando accadono situazioni del genere, e sul fatto che poi alla fine la sconfitta, come abbiamo sentito prima nelle altre canzoni, di un amore finito ti fa riflettere su quella che è la tua vita, e ti fa porre anche una serie di domande, e ti lascia anche spaventato, magari in mezzo a una strada, a correre, ad affrettare il passo per prendere un tram. Ed è questa, insomma, la conclusione di questa canzone. Dunque, da questa fine della relazione si giunge ad un'analisi, ad una riflessione su se stessi e sulla propria vita, una sorta di bilancio, ma nemmeno bilancio, una sorta di straniamento che si può provare, di una dissociazione che si può provare quando accadono simili avvenimenti. Quindi vi consiglio davvero di ascoltare con attenzione questa canzone di Federico Fiumani, dei Diaframma, leader indiscusso dei Diaframma. E quindi niente, abbiamo già parlato troppo. Buon ascolto su Transizione di Fase.